o forse non abbastanza. Ne parliamo con un grande ospite, un divulgatore scientifico, climatologo italiano e meteorologo. Diamo il benvenuto a Luca Mercalli. Ciao, ciao Luca. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti voi. Allora, la parola clima intanto, Luca, cosa suscita in te? Ma intanto io ho ascoltato cosa hanno detto i nostri bambini e allora è giusto quello che hanno percepito. Ci sono due modi di guardare il clima. Uno è il cambiamento a breve termine e questo diciamo che non ci preoccupa perché fa parte della normale variabilità di un sistema che sulla Terra tende a darci ogni tanto delle sorprese, dei capricci momentanei. È la normale evoluzione del clima naturale. Quello che ci preoccupa invece è il clima malato, mm-hmm. È il clima che abbiamo inquinato noi, e qui viene fuori un pezzo di quella domanda di chi è la colpa, negli ultimi 200 anni, da quando l'uomo ha cominciato a usare come energia principale per tutte le sue attività il carbone, il petrolio, il gas. Ovviamente il fumo che esce dai nostri tubi di scappamento, dalle ciminiere, dove va? Va nell'atmosfera. E aggiungi oggi, aggiungi domani, noi abbiamo cambiato in questi ultimi 200 anni la composizione chimica dell'atmosfera naturale, al punto che è un po' come un organismo malato, è come una persona che ha il colesterolo troppo alto e allora il medico dice attento che poi ti viene l'infarto, devi metterti a dieta. E questo è un po' quello che deve succedere nei prossimi anni se vogliamo evitare che questa malattia del clima che lo sta riscaldando prosegua troppo, portando una serie di conseguenze che i bambini hanno già correttamente evidenziato. Possono essere le ondate di calore, le siccità, che poi hanno degli effetti diretti sulle nostre attività. Per esempio la siccità ha un effetto diretto sull'agricoltura e quindi sulla produzione di cibo. Quindi sei d'accordo nel mettere la parola clima tra le parole importanti di questo anno? Certamente sono d'accordo, la dovremmo mettere ormai tutti gli anni e siamo in ritardo perché la dovevamo mettere anche negli anni passati, abbiamo atteso troppo, adesso è un po' tutto più difficile. C'è l'accordo di Parigi, che è questo grande trattato internazionale che è stato approvato proprio quest'anno dopo che è stato discusso a Parigi nel dicembre del 2015, speriamo che dia gli effetti sperati e quindi proprio questa dieta della nostra economia mondiale che usi sempre meno petrolio, sempre meno carbone, sempre più pannelli solari e pale eoliche per ridurre le emissioni di anidride carbonica che sono quelle che cambiano il clima a lungo termine. Luca, oggi qui parliamo di futuro, ci fai uno scenario per i ragazzi italiani? Cioè l'Italia, cosa dobbiamo aspettarci? Un futuro climatico più tropicale, più caldo, con più manifestazioni violente? più estremi, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Tutto questo sono gli ingredienti purtroppo che sono lì pronti a scattare se non bonifichiamo abbastanza rapidamente la nostra atmosfera. Purtroppo l'Italia e in particolare il Mediterraneo si trovano in un punto molto sensibile del pianeta, tant'è che si chiama hotspot climatico, un punto caldo, un punto ipersensibile. Questo perché siamo vicini all'Africa. E quindi basta poco per l'aria calda africana superare il Mediterraneo, sto ovviamente semplificando, arrivando anche sulle nostre regioni. E questo vuol dire che rischiamo di avere un riscaldamento in tutte le stagioni, un inverno che diventa molto più mite, un inverno possiamo dire all'acqua di rose, con meno gelo, con meno neve, e al contrario un'estate molto molto più calda che nel caso peggiore, quello che vogliamo evitare, lo dico perché i nostri bambini si diano da fare per evitarlo, non per spaventarli. Sì. Nel caso peggiore noi potremmo diventare come oggi i tropici, come il Pakistan. Potremmo avere una pianura padana assolutamente tropicale. Non dobbiamo rischiare di avere questo tipo di scenario. Luca, guardando a questi numeri abbiamo però molto spazio per fare in modo di non arrivarci, cioè di ridurre il riscaldamento a un grado ancora da qui alla fine del secolo, che ci porterà ancora un po' di problemi, ma molto più maneggevoli, ai quali potremo adattarci meglio rispetto a un aumento che potrebbe superare i 5-6 gradi se non facessimo nulla. Perché anche un grado in più o in meno può fare davvero la differenza. Facilissimo. tantissimo da sperimentare. Pensate alla nostra temperatura corporea. Noi stiamo bene a 37 gradi, pensate a come vi sentite quando avete 38. C'è già la febbre e uno sta male a letto e prende l'aspirina. Pensate come vi sentite con 39, con 40, con 41, con 42. Dopo 42 si muore. Luca, prima hai detto che i nostri ragazzi potrebbero fare qualcosa. Cosa dovrebbero suggerire ai genitori di fare? Perché è lì anche che passa il messaggio, loro possono essere ottimi consiglieri. Devono essere protagonisti, devono pretendere, perché ne va della qualità della vita, della loro vita, quella dei prossimi decenni. E siccome la dieta va fatta adesso perché la malattia non prosegua, sono proprio i nostri più giovanissimi che devono insistere con gli adulti di oggi perché prendano i provvedimenti. Allora, in linea generale direi, abbattiamo gli sprechi. Siamo una società che spreca un sacco di cose, spreca energia, spreca oggetti, produce un sacco di rifiuti. Tutte queste cose non servono a nessuno, inquinano l'atmosfera, l'acqua, i suoli e quindi anche la nostra salute, e ci fanno perdere risorse preziose che servono invece al loro futuro. Quindi, abbattendo gli sprechi abbiamo già risolto un sacco di problemi. Poi possiamo pensare a casa nostra, di usare i pannelli solari, di mettere l'isolamento termico per usare meno energia per riscaldarci o per raffreddarci d'estate, visto che le estati diventeranno più calde. Possiamo usare i mezzi pubblici o la bicicletta, il car sharing o l'auto elettrica per muoverci. Possiamo volare meno perché il volo aereo produce un sacco di emissioni. Possiamo evitare di sprecare cibo, comprare il cibo locale e di stagione. Insomma, adesso cerchiamo di mettere insieme tutte quelle cose che chiamiamo green economy e che più o meno tutti sappiamo già perché se ne parla da tanti anni, dobbiamo solo farle diventare prioritarie, devono diventare il nostro obiettivo centrale. Grazie davvero a Luca Mercalli. Tra l'altro Luca è anche esperto e appassionato di orto, e in questo periodo cosa stai raccogliendo? In questo periodo, anche grazie all'inverno che è molto così... non sta gelando, un inverno per ora mite, sto mangiando cavoli, cavolfiori, cicorie, il radicchio rosso, la Catalogna e ovviamente le patate che mi ero messo in cantina durante l'estate. Grazie Luca Mercalli, ciao Luca, buon anno. Ciao, presto. Ciao a tutti, anche a voi. Insomma, abbiamo fatto anche un bel minestrone chiacchierando con Luca Mercalli. Adesso è il momento delle storie, dei racconti di Telmo Piovani. Ma guarda, ti racconto, alla luce di quello che diceva adesso Luca, un paradosso, perché in fondo noi Homo sapiens viviamo in mezzo all'instabilità ecologica del clima da un sacco di tempo. Il clima cambia così come ora da 2,5 milioni di anni. Fasi calde, fasi fredde, le calotte glaciali che avanzano e che arretrano, i mari che si alzano e che si abbassano, le fasce di vegetazione che si spostano, il deserto del Sahara che è stato deserto, poi è diventato una prateria e poi è tornato deserto. Noi abbiamo vissuto in questo contesto da tantissimo tempo e questa è stata anche la nostra fortuna, perché ci ha reso flessibili, plastici, molto adattabili, no? E siamo sopravvissuti a molte ere glaciali. Il paradosso qual è? È che adesso con le nostre attività, quelle che ci ha spiegato Luca, soprattutto bruciare combustibili fossili, stiamo cambiando il clima così velocemente che siamo noi la causa del cambiamento al quale dovremo poi adattarci. Quindi i nostri ragazzi dovranno adattarsi ai cambiamenti che abbiamo introdotto noi, e questo non va bene, anche perché è troppo veloce. I cambiamenti che raccontavo prima sono stati molto lenti e i processi di adattamento sono stati possibili. Ora questo sta succedendo in un modo troppo veloce e sappiamo benissimo che un mondo più caldo sarà meno confortevole per noi. Saranno contente le palme da dattero, saranno contente le specie che vivono in Pakistan, ma per noi sarà un grosso problema, e quindi siamo noi responsabili di quello che sta per succedere, e noi siamo gli unici che possiamo invertire questa tendenza. Però il film L'era glaciale ti è piaciuto? Il primo, sì. Okay. Il sequel, come al solito, sono un po' deludenti. Adesso è arrivato il momento della pubblicità. Prima però un rap. La rima e la voce è sempre quella di Bruno Tognolini con il rap del vento. Corri fino a qui, corridore trasparente. Corri da lontano, meravigliosamente. Nessuno tocca niente, però tutto si muove. Tu corri fino a qui, però non so da dove. Prendi a spintoni le foglie solitarie. Spargi quelle nuvole che si danno arie. Sciogli quelle sciarpe. Alza quelle gonne. Fai diventare nevrasteniche le donne. Arruffa i rami. sfoglia i giornali, fai diventare litigiosi gli animali. Passa volando un popolo di foglie, uno che ha in testa il cappello se lo toglie. Passa strisciando un branco di cartacce, uno col gelato dice parolacce, gelati nella sabbia, la sabbia dentro gli occhi, girandole che frullano appena tu le tocchi, striscioni ed aquiloni, maglioni con le ali, bandiere di calzoni, farfalle di giornali. Amico trasparente, mi spieghi come mai non vedo ciò che sei, però mi piace ciò che fai. Toccami le mani, la tua casa dov'è? Torna anche domani per giocare con me. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio. Ben tornati a Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio. Quattro parole che saranno particolarmente significative in questo nuovo anno. La terza parola è una parola che riguarda in prima persona i più piccoli ed è vaccino. Eh sì, una bellissima invenzione umana, un capolavoro della medicina. Oggi qualcuno ne parla male, ma si sbaglia. Che cos'è un vaccino? Lo scopriremo oggi, ma partiamo dalle parole dei più piccoli e dalla loro definizione. Una sostanza che tutti dobbiamo fare per proteggerci da malattie. Un vaccino è una puntura contro le malattie. E alcune volte il vaccino, se si fa di mattina, tipo si può avere un po' di febbre. Una medicina è qualcosa che ti aiuta a farti guarire se stai male. No, perché l'ho fatto già una volta, quando lo stavo andando a fare c'avevo poca paura. Poi quando l'ho fatto non ho sentito niente e non ci ho avuto più paura. Chi ha paura dei vaccini, codice edizioni, è il libro scritto dal nostro ospite, è uno storico della medicina. Diamo il benvenuto ad Andrea Grignoglio. Ciao Andrea. Ciao. Ciao a tutti. Allora, una parola importante, una parola che ci ha accompagnato nel 2016, una parola che deve essere protagonista anche in questo anno, vero? Sì, lo sarà senz'altro, perché è una parola troppo importante che riguarda la salute dei bambini, ma di tutta la popolazione italiana. Siccome ci sono un po' di critiche, tutte diciamo un po' false e irrazionali, bisogna continuare a parlare dei vaccini per rassicurare tutti della loro bontà e efficacia. Che cos'è un vaccino, Andrea? Riesci a spiegarlo ai nostri giovanissimi ascoltatori? Ci proviamo, credo di sì. Il vaccino sono degli agenti infettivi che gli uomini un po' di decenni fa sono riusciti a tenere sotto controllo, perché sono riusciti a disattivarli, cioè a prendere diciamo sostanzialmente virus e batteri per far sì che diciamo non creino un grande effetto nel nostro corpo, inserirli attraverso tendenzialmente una puntura oppure per bocca, in modo che il sistema immunitario, cioè le nostre naturali difese, incontrino questo virus o batterio, creino le difese anticorpali, in modo senza però creare la malattia. In questo modo abbiamo l'effetto migliore possibile, perché il sistema immunitario, il nostro corpo, ha imparato, ha memorizzato questa malattia con cui dopo si saprà difendere, però questa malattia molto attenuata non ha creato appunto gli effetti devastanti che invece creano i virus e i batteri non disattivati. In questo modo noi possiamo diciamo prevenire la malattia, perché nel corpo umano ha la memoria anticorpale, quindi una volta avvenuto l'incontro di questi virus e batteri disattivati, in futuro rimarremo a vita coperti da futuri incontri, anche se in alcuni casi dobbiamo fare dei richiami, cioè ogni tanto dobbiamo ricordare al corpo l'esistenza di questi virus e batteri e quindi fare i cosiddetti booster o richiami, cioè appunto reinserirli a distanza di anni in modo che siamo sicuri che rimarremo coperti da queste malattie infettive contagiose. Andrea, ma chi ha avuto l'idea del vaccino? Dunque, questa è una storia molto importante, perché in realtà l'idea di prendere delle infezioni, diciamo degli agenti infettivi, e in qualche modo inocularli, cioè inserirli dentro il corpo in modo da creare appunto una reazione immunitaria per cui e poi sviluppare la memoria e quindi difenderci, è una cosa molto antica che addirittura insomma si perde nell'Asia, della Cina, addirittura insomma intorno al 1500 dopo Cristo sono le prime testimonianze. Però questo come avveniva? Avveniva una cosa molto semplice: si vedevano dei malati, appunto di malattie infettive, si prendevano le forme anche qui più attenuate di persone che appunto si ammalavano ma non morivano. A quel punto, dopo qualche giorno, si prendeva dalle loro pustole oppure dalla loro saliva, si estraevano questi liquidi e si passavano volontariamente alle persone sane, in modo che anche queste persone a loro volta si ammalavano di questa forma lieve, in modo da creare questa famosa memoria immunitaria che poi copriva queste persone, le rendeva appunto immuni. Così è stato per diversi secoli. Poi la grande intuizione c'è stata alla fine, proprio gli ultimissimi anni del Settecento. Un medico inglese, Jenner, sì, scoprì una cosa molto interessante. Scoprì che invece di prendere, diciamo, il pus dalle persone infette, era più interessante ed era meglio prendere il vaiolo, che era una malattia appunto infettiva molto diffusa allora, dalle vacche, che anche loro avevano una forma attenuata per l'uomo di questa malattia, e le persone che si ammalavano di vaiolo vaccino erano coperte anche da questa forma umana. Perché se ne accorse? Perché andando in campagna si rese conto che le persone che erano in stretto contatto con le vacche che si prendevano questa malattia, poi durante le epidemie non si ammalavano. Allora, appunto, vaccino viene dalla parola appunto vacca latina, e quindi incominciò a capire che prendere la malattia dalle vacche, in questo caso il vaiolo vaccino, poteva coprire, e quindi attraverso, poi insomma passarono un bel po' di anni, quasi 80, e il grande Pasteur utilizzò questa stessa tecnica, utilizzando anche altri animali, per prendere delle malattie infettive che appunto si attenuavano negli animali, passarle all'uomo, e così insomma si svilupparono tutti i vaccini, anche se adesso le cose sono un po' più complicate e ancora molto più sicure, diciamo, rispetto a queste prime forme di vaccinazione. Andrea, senti, ma perché il vaccino è importantissimo non soltanto per chi lo prende, per il bambino che lo prende, ma anche per tutti gli altri, perché aiuti anche gli altri a non prendere le malattie? Perché questo è un po', diciamo, difficile da spiegare. Io lo faccio sempre, spiego questa cosa con l'esempio di una classe con i bambini, perché diciamo si chiama immunità di gruppo. Cosa succede? Tutti i vaccini funzionano se quasi tutti in una classe ipotetica, ma diciamo una popolazione, si vaccina, perché in questo modo i virus e i batteri non circolano. Cioè, se tutti noi abbiamo fatto il vaccino, i virus e i batteri non riescono a inserirsi, diciamo, a creare delle infezioni nei singoli individui, nelle singole persone, in questo modo non veicolano nella società. Ora, si sa, è una regola abbastanza diffusa, che più o meno per essere coperti noi abbiamo bisogno di raggiungere il 95% della popolazione, cioè in una classe di 20 ragazzi solo uno, diciamo, può non essere vaccinato. Ecco, se quell'uno non viene vaccinato, qualora un virus o un batterio lo infettasse, la copertura degli altri 19 fa sì che, pur ammalandosi, questo singolo ragazzo non passa l'infezione contagiosa agli altri. Se però già due ragazzi su 20 non sono vaccinati, le cose sono più complicate. Perché? Perché il virus o il batterio hanno una grande arma di attacco, che è quella della mutazione, cioè variano molto. Quindi entrano in un primo corpo, incominciano a variare, a diversificarsi, entrano, infettano il secondo ragazzo non vaccinato della classe e fanno ancora dei cambiamenti. Cosa succede? Che al secondo passaggio, dal primo al secondo ragazzo, hanno fatto così tanti cambiamenti, perché l'abbiamo detto, è una loro caratteristica biologica, quella di cambiare molto. Cosa succede? Succede che la loro forma è così mutata che a questo punto i ragazzi che hanno fatto il vaccino non sono più in grado, il loro sistema immunitario non riconosce più il virus o batterio perché è mutato troppo. Quindi il vaccino, che è stato, diciamo, costruito contro una forma standard di virus o batterio, non riconosce più il batterio o virus mutato che ha fatto i due passaggi nei due ragazzi non vaccinati. Un'ultima domanda, Andrea, ma perché fa paura? Beh, il, vaccino fa paura per diversi motivi. Innanzitutto è un farmaco, diciamo, chiamiamolo farmaco, che noi prendiamo quando stiamo bene. Questo è un fatto fondamentale. Certo. Perché quando qualcuno sta male, se ci sta male una gamba, abbiamo un forte mal di testa, ci prendiamo subito un farmaco, perché la cosa che vogliamo fare è eliminare, diciamo, il dolore immediato. E nessuno va a pensare agli effetti collaterali o indesiderati o le reazioni avverse, come si dice, dei farmaci, perché in quel momento noi abbiamo un dolore alla gamba o alla testa e lo vogliamo risolvere. Mentre il vaccino, come si sa, si fa quando si sta bene, e questo, diciamo, si sa che questo crea problemi, perché ci si comincia a interrogare su possibili effetti avversi. L'altra ragione è che appunto non solo usiamo un farmaco quando stiamo bene, ma è un farmaco che, specie nell'immaginario, ormai sempre meno, però che cos'è? È un virus o un batterio, quindi un agente patogeno disattivato. E non è proprio facile spiegare a un genitore che portare il proprio figlio piccolo, diciamo, indifeso a subire un trattamento comunque medico-sanitario quando è in perfetta salute, e in più inoculando, inserendo nel bambino una cosa che potenzialmente, diciamo, è nociva, e questo crea molte resistenze, diciamo. Ecco, queste sono le due ragioni principali, sostanzialmente, per cui c'è questa opposizione. Grazie davvero ad Andrea Grignoglio, storico della medicina, per averci raccontato, per averci fatto capire cosa sia un vaccino. Ciao Andrea. Grazie, a presto. A voi, ciao a tutti. Adesso invece è il momento di Telmo Pievani con le sue storie, i suoi racconti, partendo dai vaccini. Andrea ci ha raccontato una cosa molto importante adesso, no? Che i virus e i batteri hanno una grande arma evolutiva. Mutano velocissimamente, sono molto rapidi, si riproducono tanto e cambiano velocemente, molto più velocemente di noi. Sono dei campioni di evoluzione darwiniana. E allora cosa succede? Che tra noi e loro, da tantissimo tempo, c'è una sfida incrociata. Mosse e contromosse. Gli evoluzionisti la chiamano corsa agli armamenti, perché uno inventa una strategia, l'altro un'altra. L'antibiotico è la stessa cosa, no? È una continua lotta con i batteri, e addirittura, se non prendiamo giusto l'antibiotico, si sviluppa un batterio resistente. Quindi è una lotta tra noi e questi organismi molto particolari, molto semplici, ma che nella loro semplicità sanno metterci in scacco. Però, se vuoi, c'è oggi un nuovo fenomeno dal quale dobbiamo vaccinarci, che sono altri tipi di virus, che sono quelli che si diffondono in rete. Idee virali, molto spesso false, bufale, che si diffondono, come quella che i vaccini producono l'autismo e altre malattie, cosa che è stata inventata completamente. Quindi bisogna vaccinarci anche da questi virus in rete. Adesso è il momento del traffico, ma prima ancora le rime e la voce di Bruno Tognolini da Filastrocche della Melevisione, Carlo Galucci editore. Ecco la filastrocca della buona guarigione. Ben guarito, ben tornato, ben condito, ben sfornato, ogni febbre è come un forno che ti cuoce tutto il giorno, ma il tuo male è già finito, la salute ora ritorna, il malato è già guarito, come il pane che si sforna, testa e pancia e gola sane, fresco come il pane. Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio. Eccoci qua ancora a Terra in vista, il 2017, spiegato a mio figlio. La quarta parola è una parola molto particolare ed è vita. Beh, la parola vita qui la decliniamo al singolare. Vogliamo scommettere, metti mai che nel 2017 dobbiamo cominciare a declinarla al plurale, vite? Quante vite ci sono in giro per l'universo? Sono tutte simili alla nostra o hanno preso strade diverse? Camminano come noi oppure sono dei piccoli batteri sottoterra? Quante vite ci sono? Fra un attimo capirete, scoprirete perché la parola vita ci accompagnerà in questo 2017, ma prima, come sempre, i nostri giovanissimi che hanno dato la loro particolare definizione. La vita cos'è? La vita è l'aria, il tutto. La vita è ogni persona, una vita. Le persone al massimo sono arrivati 102, 103, 104 anni.